pranzo la me stessa, non vado sempre a messa. No, prego assai il Signor, vivo sola soletta, là in una bianca camicia, guardo sui sessi, fuori d'ora a infortunare.